Salve a tutti cari amici e benvenuti alla puntata numero 22 di Vagabondo in giro per il mondo. Come sempre al microfono per voi il vostro speaker vagabondo Fumino e oggi mercoledì 15 marzo 2017 mi sono trovato a farmi delle domande circa delle abitudini che nel mondo occidentale stanno facendo presa, si stanno facendo largo e queste abitudini sono abitudini tipicamente orientali della meditazione, della riflessione, dell'introspettiva e addirittura questo poi magari si porta su un piano fisico più che mentale con esercizi che come ad esempio lo yoga e quanto altro. Bene, tutto questo diciamo è ormai anche abbastanza sdoganato nella vita comune anche di noi italiani e alla fine già dai tempi della New Age, quindi ormai svariate decenni fa queste pratiche iniziavano a fare breccia nel pensare, nel comune pensare dell'essere umano occidentale. E facciamo questo distinguo perché chiaramente queste sono pratiche che, come dicevo prima, vengono dall'Oriente e quindi hanno delle valenze molto importanti in un certo contesto, mentre trasportate nel mondo occidentale in effetti possono anche sembrare goffe o addirittura fuori luogo, perché in effetti pensate alla vita che siamo chiamati a fare, a condurre nostro malgrado, perché chiaramente non è che tutte le persone vogliono vivere come siamo destinati a vivere, come siamo incanalati a vivere, ma anzi probabilmente molti di noi farebbero più volentieri una vita molto più tranquilla, molto più pagata, molto più riflessiva. Però per effetto della vita che in realtà l'Occidente ci ha messo davanti, che ci ha portato a fare, questo non è sempre possibile. Bene, allora, detto questo, le persone cercano invece in realtà una specie di via di fuga, una specie di ciambella di salvataggio, di salvagente per evadere un po' dalla frenesia, dalla rincorrersi, dal correre sempre e comunque dietro ad un orologio, dietro a un sacco di impegni. Per l'appunto in questi giorni parlando con degli amici mi facevano notare una cosa, dice: io mi sono reso conto che negli ultimi anni il tempo vola, cioè mi trovo oggi che ho, mi diceva questa persona, 36 anni e mi sembra ieri che ne avevo 25, cioè proprio il tempo è volato. Io mi sono fatto una domanda e praticamente nel parlare al tavolo tutti insieme, quello che ci sembrava più corretto ipotizzare per dare una specie di spiegazione razionale a questa sensazione che chiaramente anche io condividevo con questa persona e anche gli altri che erano con me, alla fine ci siamo un po' tutti ritrovati a condividere questa sensazione, penso che anche voi cari ascoltatori del Vagabondo possiate dire la stessa cosa, e abbiamo teorizzato che ad esempio questa sensazione, questa percezione del tempo, che chiaramente il tempo secondo molti è addirittura è una convenzione che non esiste, è solamente per dare delle scadenze, per scandire dei ritmi, altrimenti il tempo sarebbe inutile, il tempo contato con le ore, con i giorni, con il mese e gli anni. Perché un tempo così lungo, come ci appare lungo, 10 anni ad esempio, in realtà a pensarci bene in realtà è stato molto breve. Ci sono sensazioni o cose vissute tanti anni fa che ci sembrano vissute proprio ieri, e questo perché forse, teorizzando, la frenesia, il continuo correre e rincorrere della vita comune ormai ai più del mondo occidentale, diciamo del nostro piccolo mondo, però probabilmente questo si può estendere al mondo occidentale in genere, ci porta a dilatare e a stringere il tempo in maniera diciamo incontrollabile. Quindi quante volte vi sarà capitato, a me perlomeno mi capita spesso, di dire: ah, ma è già marzo e vedo già le giornate allungarsi fino ormai oltre alle 18:30 di sera, e se ci penso bene mi sembra ieri che era l'inverno, e in realtà è già passata una stagione, ma mi sembra ieri che ero in vacanza per l'estate, quindi già quasi un anno fa, e mi sembra ieri. E detto questo, bene, ci chiediamo perché le persone vadano sempre più verso queste pratiche orientali, trasportandole al mondo occidentale, pur non essendo chiaramente adatte a questo nostro stile di vita. Ovviamente il perché non ce lo abbiamo, non lo sappiamo, poi ognuno cerca di fare quello che meglio crede per vivere serenamente la vita, e quindi lo faccia, e anzi, se le cose che fate vi fanno stare bene, vi fanno stare meglio, continuate a farle, purché chiaramente non danneggino nessun altro. Però chiaramente io questo, da amici del vagabondo, non me lo aspetto da voi. Quindi se vi fa bene fermarvi un'ora e andare a fare yoga un'ora, pur di staccare un po' la spina da questa frenesia che c'è, fatelo pure. Fatto sta che chiaramente anche io mi metto nel mezzo a questo calderone di persone che in qualche modo cercano di raccapezzarsi nella vita che vivono, nella vita che ci siamo ritrovati a vivere. Chiaramente non l'abbiamo scelto noi, né il luogo, il posto di nascita, quindi cambia tutto, no? Cioè, noi ci siamo ritrovati a vivere la vita qua, io ad esempio in Italia, e gli altri, chi in Italia come me, ma chi da altre parti del mondo, chiaramente. Però questo nessuno di noi l'ha scelto, però chiaramente come nessuno di noi ha scelto praticamente il ritmo della vita che vive, perché sì, possiamo sceglierci di fare un lavoro piuttosto che un altro, abbiamo potuto scegliere di fare una scuola piuttosto che un'altra, e chiaramente abbiamo scelto di avere degli interessi e degli hobby piuttosto che altri, ma il ritmo della vita, se pensate bene, non lo abbiamo scelto noi. In questo è indipendente dalla vita che una persona conduce. Alla fine chi fa, che ne so, il lattaio come chi fa il direttore di banca, sì, fanno due vite differenti, ma il ritmo frenetico che la società ci impone e lo impone a chiunque, e questo non è stato scelto da noi, ci siamo ritrovati a vivere in questi tempi. Bene, allora, provando a vivere una vita un attimino più tranquilla, un attimino più rilassata, si fanno delle scoperte, si va a cercare come fanno ad esempio, che ne so, i monaci zen, roba del genere, e quindi ci leggiamo libri, ci prendiamo le informazioni da internet, e questo proliferare anche di informazioni è tangibile negli ultimi anni. Bene, allora, c'è da stare attenti perché se la domanda aumenta, chiaramente questa è una legge dell'economia, aumenta l'offerta, aumenta la domanda, ma nell'aumentare l'offerta aumenta anche l'offerta cattiva, diciamo, quindi si esce un po' da quello che è preferibile seguire e si entra in una situazione che in realtà è preferibile non seguire. Quindi attenzione a giocare con certe cose, perché alla fine anche queste storie del karma e tutto quanto sono di fatto religioni, e le religioni, come anche quelle orientali, come quelle occidentali, come quelle arabe, insomma tutte le religioni hanno dietro di sé un messaggio. Alla fine non è che uno la religione la debba intendere presa alla lettera, come ci spiegano fin da piccoli ad esempio, anzi nemmeno come ci spiegano, perché ci spiegano magari le cose giuste, però siamo abituati a leggere, che ne so, i libri di storia a scuola, e quindi ci sembra che quello che ci viene detto sia storia. In realtà è un bel messaggio, è un messaggio bellissimo, un messaggio da comprendere, un messaggio da mettere in pratica. La religione è favolosa, è una cosa bellissima che è assolutamente però da interpretare, perché se interpretata nella maniera non corretta non porta da nessuna parte. È per questo che anche nell'avventurarsi in nuove pratiche, in nuove conoscenze, basta sbagliare a leggere un libro e basta sbagliare a prendere la strada che da seguire, che ci possiamo anche ritrovare in seri pasticci, il nostro malgrado, perché ovviamente a diventare di quelle persone che gli va tutto male e che niente gli dice mai bene, che mettono il naso fuori di casa e c'è sempre qualcuno, che ne so, pronto a picchiarlo senza motivo, di questi io ne ho anche conosciuti, c'è da stare molto attenti dunque. E questo è il karma. alla fine questo è il karma nero, il karma bianco, attirarsi simpatie e attirarsi antipatie. È una cosa molto difficile, è una cosa da ponderare molto bene, quindi ben fa seguire certe strade, però è preferibile stare molto attenti e osservarsi bene quando mettiamo in pratica degli esercizi nuovi, delle conoscenze nuove, perché c'è da stare attenti a quello che ci succede intorno. Alla fine il vero karma è questo qua. Bene, perché mi sono fatto delle domande, oltre al discorso fatto al tavolo con gli amici l'altra sera, ho notato una cosa. Come si intitola la canzone che ha vinto Sanremo? Occidentalis Karma. E poi ho visto, c'era un'intervista e l'autore della canzone, nonché l'esecutore a Sanremo, autore poi ho letto insieme ad altre persone, anche lui è una persona che mi sembra che abbia un po' inteso delle cose, dice che non si aspetta niente e tutto quanto. E come attirare il karma buono e scacciare il karma nero? Lui a un certo punto dice, ma questo sono io allo specchio. Bene, è allo specchio. Lo specchio è una cosa molto importante da tenere di conto, perché nella vita tutto è allo specchio, e quindi c'è da capire bene come fare per attirare un karma piuttosto che un altro, per farci andare le cose bene piuttosto che male. Alla fine karma ha il significato di atto, di azione, di compito, di atto religioso, di rito, quindi questa più o meno è la spiegazione della parola karma, e spesso viene utilizzata in maniera errata anche per dire cose inesatte. E oltre al fatto che una canzone di questo genere addirittura abbia vinto Sanremo, io suppongo che non sia proprio un caso, anzi suppongo che il caso in realtà non esista, però questa è un'altra storia di cui magari un giorno parleremo. Ho notato che anche al cinema iniziano ad arrivare film che buttano là nel mezzo l'argomento. Sta uscendo un film, me ne sono accorto per caso, che ha, tipo, mi sembra si intitoli Destinazione Karma, Operazione Karma, una cosa del genere, un film comico, e così come la canzone e anche il film mettono un po' alla berlina, scherniscono un po' tutte queste pratiche, e può essere anche una cosa, cioè da capire il perché. Però è una cosa, può essere anche una cosa buona, può essere una cosa che è fatta per il bene, perché in effetti prendersi troppo sul serio, giocando con questi argomenti, senza essere ben cosciente di quello che andiamo a fare, potrebbe essere molto pericoloso per chi ci si ritrova invischiato nel mezzo. Quindi ben venga gli scherzi, gli scherni di queste cose se fanno pensare, e ben venga le persone che riescono a mettersi in discussione pur affrontando determinate cose. Quindi fate yoga in palestra, fate meditazione, fate quello che fate, bene, non fatelo fine a se stesso, e cercate di capire il perché in certe parti di mondo si fanno certe pratiche religiose piuttosto che altre. Alla fine meditare in palestra facendo yoga non è uguale che all'andare in chiesa e pregare inginocchiati davanti ad un altare. Secondo me assolutamente sì, è la stessa cosa. Sì, l'altro c'ha dei movimenti fisici che ci fanno sembrare una cosa differente, ma in realtà alla fine è un atto di preghiera interiore, è un atto di crescita interiore che facciamo per stare meglio. E cos'è che ci fa stare meglio se non la crescita interiore? Penso ci sia molto poco che ci fa stare meglio. Sì, forse qualcosa di fisico, qualcuno può dire che è il denaro che ci fa stare meglio, qualcuno sta male se non lavora, qualcuno sta male se lavora e quindi magari vorrebbe oziare tutto il giorno, ma non è così, non è così che si risolvono gli impicci, non è così che arrivano le fortune. Le fortune arrivano seguendo degli istinti, diciamo, interiori, sviluppandoli e riuscendo a farlo nella maniera più consona e prolifica possibile, che sia in una palestra di fronte ad un incenso acceso, o che sia in chiesa di fronte ad un altare, o dove volete voi, su un colle a guardare l'orizzonte. Non è importante questo, l'importante è crescere sempre. Bene, cari amici del Vagabondo, i dubbi di questa settimana ve li ho elencati e mi auguro di esservi stato un po' di aiuto a pensare anche a questo tipo di argomento, semmai ne siete anche voi affascinati. E anche per questa settimana, cari amici del Vagabondo, la puntata termina qua. L'appuntamento è come sempre fra una settimana sulle frequenze di Radio Big World, e nel frattempo, come sempre, siate saggi!